Linee d'ombra di Matteo Caccia. Tanti come noi erano persone che si erano trovate in questa esperienza terrificante senza lontanamente immaginarsela. Non c'era una via di uscita, dire vabbè adesso mi fermo, scendo. Le cascate Vittoria sono tra le cascate più potenti e selvagge del pianeta e le rapide che si generano ai loro piedi sono tanto spettacolari quanto estreme. Storie di un rafting incredibile e di un viaggio lontanissimo in una puntata che si intitola Avventure nel mondo. Si potrebbe da questa premessa pensare che io ne ho fatto un mestiere del rischio. In verità non è così. Per me il rischio è stato, e l'avventura quindi, è stato una passione, una grande passione, un bisogno di spazio intorno a me, un bisogno di libertà, un bisogno di dialogare con me stesso, oltre che con l'ambiente in cui mi muovevo. E non un bisogno di mettersi alla prova? Certo. Di vedere fino a che punto arrivo? Le componenti sono tante, indubbiamente sono tante, però credo che quelle fondamentali siano state queste che mi hanno dato la spinta di lasciare il gruppo, di lasciare la città per i grandi vuoti, i grandi spazi, pieni però di elemento vitale per me, cioè di avventura. È la voce di Walter Bonatti quella che avete sentito, intervistato insieme anche alla voce di Enzo Biagi ovviamente. Walter Bonatti per anni ha rappresentato l'italiano che andava incontro all'avventura, che cercava di calmierare il rischio, di considerarlo affrontabile, di misurare il rischio e misurare i propri limiti. Lo ha raccontato nei suoi libri e lo ha vissuto sulla sua pelle. È un personaggio di grande fascino, Walter Bonatti lo è sempre stato. Abbiamo anche raccontato la storia della sua compagna qualche tempo fa in una puntata di Linee d'Ombra. Si intitola Avventure nel mondo la puntata di oggi e non fa riferimento o non fa marchette a nessuna tour operator del caso, anche se abbiamo raccontato storie di persone che hanno viaggiato con quel tour operator. E questo è lo spirito di questa puntata, cercare di raccontare in questi giorni in cui si sta ritornando a poter uscire di casa. Viaggiare forse è una parola grossa, ma si può cominciare ad immaginare un pochettino di nuova avventura fuori casa. Ecco, vogliamo raccontarvi delle storie che hanno a che fare proprio con questo. Uno riguarda una discesa in un fiume africano dove ci sono queste cascate potentissime che sono bellissime da vedere, un po' probabilmente più difficili da affrontare, e poi invece andremo da un'altra parte, andremo a raccontare una storia incredibile di un italiano che viene mandato a distanza in Cina per dare supporto, insomma, per quella che è stata la guerra dei boxer, si parla dell'inizio del 1900, e poi decide di fare una scelta molto radicale. Quando deve tornare a casa, sceglie di non tornare con le navi che il ministero e il governo gli hanno messo a disposizione. Ma non vi spoilerò nulla, andremo sulla storia dritti sulla storia più avanti. Mentre leggevo invece la prima storia che vi racconteremo, quella di Marta, che appunto parla di una discesa in rafting in un fiume in Zimbabwe, nello Zambesi per l'esattezza, mi è venuta in mente quando ho fatto il mio unico corso di kayak su un fiume in Valsesia, dove i miei genitori hanno una casa da quando ho un anno praticamente, e a una certa età, attorno ai 30, ho detto facciamo una lezione di kayak, e mi ricordo questo istruttore bravissimo e molto pacato che a me e al mio amico Federico disse: quando scendete e vedete c'è una roccia lungo il letto del fiume, non guardate quella roccia, non guardatela, guardate a destra o a sinistra, perché se guardate la roccia sicuramente ci andate contro. Ce l'ha detto una volta, non ce l'avesse detto. Fortuna che ci aveva anche insegnato a raddrizzarci col kayak, altrimenti probabilmente non saremmo qui a raccontarlo. Si intitola Avventure nel mondo questa puntata, mettetevi comodi, cominciamo a raccontare. Benvenuti a Linee d'Ombra. La storia che vi voglio raccontare si svolge in Zimbabwe, nel 2004. Frequentavo l'ultimo anno di medicina e insieme ad un compagno di corso avevamo deciso di trascorrere parte dell'estate come volontari in un ospedale gestito da un'anziana dottoressa italiana nello Zimbabwe rurale. È stata forse l'esperienza più forte e intensa della mia vita di medico. giorni durissimi e indimenticabili in cui io e il mio compagno di avventure, pieni di buona volontà e ideali, abbiamo toccato con mano quanto poco le nostre nozioni potessero essere utili in quella realtà di povertà estrema e di totale assenza di risorse. Negli anni 60, tre dottoresse, suore laiche e romagnole, erano andate in Zimbabwe e avevano aperto degli ospedali. Due di queste erano state poi uccise nelle lotte dello Zimbabwe ed era rimasta questa Marilena Pesaredi, che quando siamo andati noi ormai era una signora di 74-75 anni, la reggente di questo ospedale nello Zimbabwe rurale. Lo Zimbabwe poi nei paesi dell'Africa del Sud è probabilmente il paese con il tasso di AIDS più alto. Ma quei giorni, quelle sensazioni e gli incontri in quell'ospedale sono un'altra storia. Alla fine di quel mese di lavoro, con le ossa rotte per esserci sentiti molto meno utili di quanto ci aspettassimo, decidiamo di usare gli ultimi 5 giorni prima del volo di ritorno per andare a visitare le cascate Vittoria. Raggiungere la meta è stata una prima avventura. Viaggiamo da Mutoko, sede dell'ospedale, ad Harare in jeep, gentilmente accompagnati dal tuttofare dell'ospedale, che credo in cuor suo fosse molto preoccupato per le sorti del nostro viaggio. Da Harare a Bulawayo su un treno notturno a carbone, reliquia delle ferrovie della Rhodesia durante la dominazione inglese. Arriviamo a Bulawayo all'alba e ci aspetta l'attesa della coincidenza per le cascate Vittoria. Un altro treno notturno in partenza la sera, 48 ore di viaggio e 2 notti in treno per arrivarci. Scendiamo dal treno la mattina, passiamo la giornata a visitare le cascate, uno spettacolo di una potenza enorme. Ci godiamo il paesaggio e i comfort della località turistica dopo le settimane passate in cui molte delle cose che diamo per scontate, doccia, caffè e latte, non erano beni contemplati. Saremmo dovuti ripartire ovviamente in treno la sera successiva e decidiamo di regalarci un'esperienza prima del rientro. Come in tutte le località turistiche, troviamo un certo numero di volantini che propongono varie attività. Non ricordo quali fossero le altre, ma so che nella short list finale, avendo scartato a priori il volo in elicottero sopra le cascate, entrano giro sull'elefante o rafting sullo Zambesi. La scelta cade sul rafting. Se ricordo bene, uno dei motivi fu che era previsto un impegno più o meno di tutta la giornata, mentre la corsa con l'elefante sarebbe stata più breve e ci avrebbe lasciato troppe ore vuote prima della partenza del treno. Ci rechiamo quindi la mattina presto al punto di raccolta per cominciare la gita sul fiume. I ragazzi accompagnatori ci danno alcune informazioni sui tempi della giornata e ci invitano a incamminarci insieme a loro. Non ho molti ricordi su come fosse composto il gruppo. Non eravamo soli, mi sembra fosse piuttosto variegato in termini di età e provenienza. Giungiamo alla riva dopo un sentiero difficile e lì ci danno i giubbotti di salvataggio, ci distribuiscono sui vari gommoni e ci dicono di tenerci forte alle corde presenti sul gommone. La nostra quasi laurea in medicina ci valse molto poco a quel tempo per valutare che fare rafting ai piedi delle cascate Vittoria potesse essere qualcosa di pericoloso. Comunque partiamo. Le cascate Vittoria sono tra le cascate più potenti e selvagge del pianeta e le rapide che si generano ai loro piedi sono tanto spettacolari quanto estreme. Era la nostra prima esperienza di rafting. Dopo pochi minuti della partenza, il nostro gommone si ribalta. Primo momento di paura intensa, acqua fredda, torbida e con una corrente intensissima. Per fortuna, sia io sia Francesco riusciamo a tenerci aggrappati alla corda e, in un tratto di pendenza minore, a risalire sul gommone. e da quel primo momento capiamo che la giornata sta prendendo una piega diversa da come l'avevamo immaginata. Le rapide continuano e il nostro gommone, sicuramente per l'inesperienza nostra e dei nostri sfortunati compagni, continua a ribaltarsi. A poco valgono i tentativi del nostro accompagnatore di tenerlo dritto, quindi è un susseguirsi di urla, tonfi nell'acqua, paura di perdere la corda, fatica nel risalire a bordo. In uno dei gommoni partiti con noi, dopo uno di questi ribaltamenti, una signora, che aveva allora probabilmente l'età che io ho adesso, viene rimessa a bordo mentre grida disperata, si è fratturata una gamba nella caduta. Dopo pochi minuti dell'incidente, su una rapida particolarmente ripida, perdiamo nuovamente il controllo del gommone che si ribalta, ma a questo punto l'urto è tanto forte che non riesco a tenermi alla corda e finisco nell'acqua senza appiglio. È abbastanza profondo, cerco di risalire ma sono trascinata dalla corrente. Mi spingo verso l'alto ma finisco sotto il gommone ribaltato senza riuscire a respirare. Io davvero, in quel momento, ho pensato che sarei morta lì, nello Zambesi. E ho fatto anche il pensiero che se Francesco fosse annegato, insieme a me, nessuno sarebbe venuto a saperlo. Per fortuna riesco a tornare a galla, trovo una cima del gommone e mi attacco. Mi sento salva. Del momento in cui il gommone si è ribaltato, la prima volta che è successo è stata qualcosa di inaspettato che non avevo proprio messo in conto che potesse succedere. È stato intenso, ma col fatto che siamo riusciti a tenerci aggrappati, tutto sommato non è stata drammatica come sensazione. Quando invece io sono stata sbalzata fuori, ho perso ogni appiglio e sono finita sott'acqua con proprio la sensazione di non riuscire a tornare a galla e non sapere dove appendermi, io in quel momento ho provato un terrore puro che forse non ho mai più provato, no, sicuramente non ho mai più provato dopo. Risalgo sul gommone terrorizzata, vorrei solo scendere, ma siamo nel mezzo delle rapide, andarsene non è un'opzione. Continuiamo la discesa, un po' alla volta diventiamo più bravi e cadiamo meno in acqua finché, dopo un tempo che a me sembra infinito, raggiungiamo una parte di fiume meno ripida e la navigazione diventa finalmente più semplice. La giornata prosegue, le rapide finiscono e il letto del fiume si apre. Io sono ancora un po' stordita dalla paura, ma ci sono paesaggi incredibili. Sulle rive vediamo anche dei piccoli coccodrilli. Verso metà del pomeriggio la navigazione finisce. I gommoni sono riportati a riva e noi iniziamo la risalita a piedi verso la partenza. Arriviamo appena in tempo per prendere il treno. Non abbiamo parlato molto durante la giornata e anche nella tranquillità del treno notturno rimaniamo in silenzio. Io sono stanca, tutto sommato contenta. So che questa giornata la ricorderò, ma non riesco a non pensare alla paura che ho avuto di non riuscire a tornare a galla. La puntata di oggi si intitola Avventure nel mondo, lo avete capito il perché? Perché sono due avventure in realtà quelle che Marta ha vissuto. Quella, diciamo, che ci ha raccontato in viva voce, quella della discesa del fiume Zambesi e anche però di fatto il mese che ha passato prima in Zimbabwe. Pronto? Ciao Marta, buongiorno. Ciao Matteo. Come stai? Molto bene, molto bene. C'è il sole, si sta bene. Dove ti trovi esattamente adesso? In questo momento sono al lago di Garda ed è il motivo per cui il segnale è molto... è piuttosto scadente. Ce la faremo. Senti Marta, partiamo da quel mese che hai fatto prima dell'episodio che ci hai raccontato. Esattamente, tu eri già laureata, eri già medico. No. Che cosa hai fatto là? No, allora era il mio ultimo anno di medicina e per cui insomma noi siamo andati da studenti anziani a cercare di dare una mano in questa realtà molto particolare che era questo ospedale nella campagna dello Zimbabwe. E cosa facevate concretamente? Che tipo di lavoro facevate? Allora, facevamo molto meno di quello che ci eravamo aspettati di fare, ma per nostra impreparazione a gestire una situazione così estrema come quella che abbiamo trovato. L'attività principale era quella di supporto a un medico infettivologo che stava facendo un periodo di lavoro in quell'ospedale, e lo aiutavamo nell'ambulatorio di monitoraggio dei pazienti HIV positivi, che in Zimbabwe purtroppo sono in percentuale altissima. Tuttora, che tu sappia? Tuttora, sì, probabilmente un po' meno rispetto a quegli anni, ma ancora veramente uno dei paesi con la percentuale più alta di soggetti affetti. Senti, invece veniamo all'episodio che ci hai raccontato. Tu non hai mai più fatto rafting in vita tua, mi auguro. No, in realtà purtroppo l'hai fatto. Non purtroppo, l'ho fatto, ma quella stessa estate, quando sono tornata dallo Zimbabwe, sempre per un progetto legato, insomma, alla facoltà di medicina, mi sono spostata direttamente in Svezia, e gli studenti da cui eravamo ospiti avevano organizzato un pomeriggio di rafting, per cui alla sola parola io ero veramente terrorizzata, sbiancata al fatto di ripetere l'esperienza. In realtà poi quello era un rafting da principianti, per cui sostanzialmente siamo stati su questi barconi per in cui una sorta di dopo poste. Avere fatto rafting allo Zambesi era come avere tipo fatto la D-Day e poi trovarti a giocare a soft air praticamente. Esattamente, però ho anche capito quello che teoricamente dovrebbe essere un'esperienza di rafting per neofiti. Ma tra l'altro, scusami, una cosa che non ho capito benissimo è, cioè, è stato un caso, c'erano il fiume era eccessivamente in piena, cioè vi è andata male, siete stati sfortunati oppure è sempre così lì? No, noi non abbiamo mai saputo niente, né prima né dopo. In realtà, per come sono le cascate, io non credo affatto che fosse un caso, perché è proprio la geografia di quel posto ad essere estrema e pericolosa, perché le rapide sono sotto a dove si infrange la cascata, che sono fra le più grandi del mondo, quindi è inevitabile che il moto dell'acqua sia estremamente potente, vorticoso e insomma, difficile da navigare. Scusami, ma della signora che si rompe la gamba avete più saputo niente, dei vostri compagni d'avventura? No, anche perché questo si è svolto nel momento in cui le scendevano, per cui al di là di sentire le grida, sentire che qualcuno diceva che la gamba era rotta, e poi a quel punto hanno ancorato quella barca in modo per cercare insomma di tirarla in salvo, la nostra barca è continuata a scivolare, a scendere, per cui non sappiamo nulla di cosa sia successo dopo. Senti, il tuo collega di allora lo senti più? Vi siete spariti uno dall'altro? Ci sentiamo poco, cioè abbiamo degli amici in comune, ma lavoriamo in posti diversi, ogni tanto per lavoro insomma ci intersecchiamo, io leggo i suoi referti, lui forse legge i miei, però insomma sono quelle persone che quando rivedi sembra che il tempo dell'assenza non sia passato, esatto. Che nel frattempo che medico sei diventato adesso, Marta? Io sono una ginecologa, lavoro in ospedale. Oh, senti, com'è stato questo periodo di epidemia per chi ha fatto il tuo lavoro? Nel senso che ovviamente i figli nascevano lo stesso e le mamme. Sì, esattamente. E le donne... Noi siamo per fortuna rimasti uno dei pochi reparti in cui si è mantenuta una sorta di normalità, perché appunto, come hai detto tu, i bimbi continuano a nascere, le mamme continuavano a venire, sono cambiate tante cose nell'organizzazione dell'ospedale, quindi il modo di accedere, i controlli all'ingresso, il numero di persone che sono a cui è permesso di entrare durante la degenza delle mamme. Per esempio i mariti non entrano, insomma. No, noi solo i mariti, ma i mariti entrano e vedono nascere i loro bambini, per cui l'abbiamo permesso. Perché io abito vicino alla Mangiagalli, che insomma è un ospedale di Milano abbastanza famoso, e ogni tanto mi capitava di passare davanti, perché ci passavo in Vespa, e vedevo queste orde di uomini sul marciapiede ad aspettare, tutti con la mascherina, il telefono in mano, perché sapevo che appunto loro non potevano entrare. Ah, invece voi a Modena, giusto, tu lavori? Sì, esatto. Io ero in provincia di Modena, Carpi, avendo numeri più piccoli chiaramente sono... È più facile da gestire. Puoi gestire, esattamente, hai un volume di persone che entrano e escono inferiore, diverso, per cui questo ti permette di gestire le cose in modo diverso. Sei più tornata in Africa? No, purtroppo no, sono tornata in paesi dell'Africa del Nord, ma insomma poi... sono successe tante altre cose belle, ho avuto i bimbi, per cui insomma il viaggiare è stato sicuramente meno facile di come era in quegli anni. Quanti anni hanno i tuoi figli? I miei figli hanno quasi 10 anni, 7 e 3. 10, 7 e 3, ah ok, insomma sono tutti abbastanza giovani. Sì, sono ancora piccoli. Anche... il decenne, se gli dai del bambino, si offende oppure? No, lui è ancora un bambino, proprio un bimbo. Per fortuna. Va bene. Marta, ti ringrazio per la storia avventurosa e per la chiacchierata che abbiamo fatto. In bocca al lupo per tutto. Crepi, ciao. A presto, grazie mille. Ciao, ciao. Sogni magico, grazie a Marta per averci raccontato quanto le avventure nel mondo possono essere davvero avventurose e anche pericolose. Si intitola così la puntata di oggi. Dopo la storia di Marta, ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo con un'altra grandissima storia qui a Linee d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'Ombra. La prossima storia ci arriva da un archivio molto molto personale, è una di quelle fonti che Mauro Pescio riesce a scovare qua e là, e i più affezionati di Linee d'Ombra probabilmente si ricordano delle storie che arrivano da quell'archivio, perché ce le aveva raccontate in prima persona lui, Giannetto Valli, che è questo signore romano che ci aveva raccontato la storia dei carabinieri che riuscivano a scappare ai nazisti dopo l'8 settembre a Villa Borghese, passando attraverso quella porticina che c'è alla porta di Piazza del Popolo. Ci aveva raccontato come l'aveva scovata, ci aveva raccontato la storia, ci aveva raccontato anche che aveva provato a farlo lui stesso, quella fuga passando per quella piccola finestra. Ebbene, arriva da lì. Giannetto Valli ha evidentemente una famiglia, ha dei parenti che avevano uno spirito avventuroso molto particolare, e questa storia arriva proprio da uno dei suoi parenti e ci porta in Cina durante la guerra dei boxer. Parliamo dell'inizio del secolo scorso, parliamo dell'inizio del 1900. Cerchiamo di fare innanzitutto un piccolo cappello introduttivo. La guerra dei boxer è stata una ribellione che è stata sollevata in Cina da un grande numero di organizzazioni cinesi popolari contro l'influenza straniera colonialista. La rivolta ebbe come base sociale moltissime scuole di Kung Fu, che in Cina sono identificate come scuole di pugilato, scuole di box, che inizialmente utilizzarono il nome di pugili della giustizia e della concordia, che i missionari dei loro racconti resero solamente come i boxer, cioè gente che fa pugilato. Dopo le prime pugili, insomma, dopo le prime violenze a Pechino contro gli occidentali, il primo giugno del 1900 sbarcò da navi europee un contingente di 436 marinai. Erano russi, inglesi, francesi, americani, giapponesi, austriaci e c'erano 41 italiani. Alla fine della rivolta, nel settembre del 1901, i contingenti militari che erano stati inviati dalle potenze occidentali vennero rimpatriati. Ma il tenente di vascello, Mario Valli, e l'ambasciatore d'Italia a Pechino, Giuseppe Salvagoraggi, erano diventati amici durante l'emergenza, si trovarono entrambi in una situazione favorevole e irripetibile per compiere un'impresa che in condizioni normali per loro non sarebbe mai stata possibile. Cioè, chiesero e ottennero dai rispettivi ministeri il permesso di rientrare in patria con mezzi propri anziché sulle navi che erano state messe a disposizione. Date le mutate condizioni politiche degli occidentali in Cina dopo la firma del protocollo finale di pace di Pechino, poterono organizzare a costi molto contenuti una carovana di carri e cavalli per attraversare a piedi il deserto del Gobi, allora del tutto sconosciuto, fino al lago Baikal, dove avrebbero utilizzato l'ultimo tratto della ferrovia transiberiana per arrivare a Mosca e poi finalmente raggiungere l'Italia. L'impresa fu così rilevante che all'arrivo a Roma Mario Valli tenne presso la sede della Società Geografica Italiana una conferenza sull'argomento di così grande rilievo da giustificare la presenza di molte personalità dell'epoca, compresa la regina Margherita. In questa puntata, che si intitola Avventure nel mondo, la seconda storia di oggi è proprio la loro, è quel diario di viaggio. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Sette ottobre, gran vento stanotte. Si sentiva l'urto furioso contro la tenda e lo scrosciare della sabbia come una pioggia sul feltro di fuori. Per fortuna con l'alba è cessato, che fra quella furia la marcia sarebbe stata forse impossibile. Ma la temperatura è ancora bassa, giudichiamo 10 sotto lo zero quando ci rimettiamo in cammino. Il nostro unico termometro si è rotto nei primi giorni, nulla si salva, dentro le carrette, dalle scosse furiose. La stessa desolazione di ieri, la stessa terra arida, in qualche zona sabbiosa. Lo stesso orizzonte sconfinato. Sono queste le sabbie che nei mesi d'inverno volano al sud con la tramontana e investono la provincia del Pecili, ricoprendo le città di una nuvola densa. In quei giorni l'aria diviene fastidiosa fin dentro le case perché nessuna chiusura trattiene questo sottile invasore. A volte si accumula tanto da produrre danni. Ora l'aria è calma e ci teniamo una certa distanza fra una carretta e l'altra per poter respirare senza ingoiare troppa sabbia. Con tutto ciò ne entra abbastanza nelle carrette e all'arrivo ci troviamo più neri del solito. Attraverso il percorso raggiungiamo Talatolon, al confine cioè della provincia di Urga. 8 ottobre, siamo sempre nel Gobi, ma qua e là si comincia a vedere qualche traccia di prateria. Il terreno non è più così piano, anzi incontriamo frequenti pendii, prima rocciosi, poi a misura che avanziamo più teneri. È bello vedere questi cavalli slanciarsi al galoppo per discese che i nostri mal farebbero al passo e poi risalire sempre con veloci andature, con l'asta e l'uomo sulla groppa. Il mongolo è cavaliere nato, li conduce a meraviglia e ne fa quel che vuole. Ci avviciniamo alla tribù dei Calcas che più delle altre conserva il carattere di quelle antiche tradizioni. Incontriamo antilopi e oche e ci fermiamo per fare un po' di caccia, ma inutilmente. 10 ottobre. Il vento è cessato e quindi la temperatura, non meno fredda di ieri, è più sopportabile. Ma andiamo incontro alla neve. Il gran piano del Gobi è proprio finito. Ora è un discendere e salire continuo, piccoli corsi d'acqua, eletti di torrenti, un po' di ghiaccio qua e là, ma non così da rendere la marcia difficile. 19-20 ottobre. Giungiamo che è quasi notte al Selenga. Ingrossato già dalle acque dell'Orcone e dagli altri fiumi minori, corre qui placido in un larghissimo letto. Per passarlo si staccano i cavalli e poi si mettono sopra un grosso pontone insieme ai Tarantas. Saranno 200 metri di fiume che traversiamo lentamente al chiarore di una splendida luna. Marciamo tutta la notte, fermandoci solo ai punti di cambio. Il russo che guida accompagna con un suo monotono canto il pacifico trottar dei cavalli. Passano campi coltivati, foreste di pini, abituri di povera gente, mentre l'aria rigida dà maggior splendore alle stelle nel serenissimo cielo. Al mattino dobbiamo abbandonare i Tarantas della posta perché la linea postale fa un largo giro allo scopo di evitare un traghetto non troppo sicuro, ma si trovano pronti altri veicoli e all'ultima stazione vediamo già in lontananza qualche bianco edificio di Verdiundinsk. Le prigioni, la cattedrale e più vicino, ecco, corre tra gli alberi un bianchissimo fumo. È una locomotiva della Transiberiana. Time loser, headlong through his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Old Charlie stole the handle, and the train in Watchtop. Oh, I know it could slow down. 21 ottobre, la ferrovia per un gran pontile di legno arriva fino alla costa e tutti gli apparecchi sono pronti per la manovra del ferry boat, se non che l'esperienza ultimamente rinnovata del battello spezzaghiaccio non ha dato buoni risultati e l'idea è stata definitivamente messa da parte. Avevano costruito dei vapori capaci di accogliere il treno e muniti di un potente sperone. Ma quando il ghiaccio più spesso riesce vano ogni sforzo e gli stessi battelli, per quanto solidamente costruiti, non potevano forse sopportare gli urti continui. Oggi il vento tiene il lago agitato, una densa caligine ottenebra il cielo e non si vede la costa, altro che quando siamo arrivati verso mezzogiorno. Qui gli stessi apparecchi, lo stesso pontile gettato quando si sperava di poter imbarcare il treno. Opere costruite tutte con gran profusione di ottimi legnami. Quando rimontiamo in treno dopo qualche ora d'attesa, fra una gran confusione di gente e di bagagli, il tempo è sempre cattivo e si va avanti adagissimo per la gran neve che ingombra la via. Siamo incassati in fondo alla valle. A destra camminano con noi, e forse più presto, le acque del fiume. A sinistra, vicinissimi, i fianchi scoscesi dei monti sono sepolti sotto la neve e ogni tanto rami più lunghi quasi toccano il treno. È notte quando, dopo parecchie stazioni di nessuna importanza, ci fermiamo a Irkutsk. Siamo alla capitale della Siberia. Mentre saliamo alle nostre camere d'albergo, un giovane vestito da pescatore sorrentino traversa il corridoio e chiama a una porta. «Teresì, sii pronta!» È la prima voce italiana da che abbiamo lasciato Pechino. «E come sei italiana?» Un'altra vocina risponde «Mo vengo!» Ed esce una ragazza in costume napoletano con la sottana rossa guarnita di nastri tricolori e il tamburello in mano, poi un'altra e altri pescatori. È un angolo di Santa Lucia in mezzo alla Siberia. Vengono da Odessa e già da qualche giorno sono ad Irkutsk, scritturati per suonare e cantare nel salone dell'hotel. Non sanno poi dove andranno a finire, a Vladivostok forse, o torneranno in Russia. Il violino di spalla, una specie di padre nobile della compagnia, spiega la situazione. «Questi signori hanno molta moneta», ci dice. «Si guadagna bene coi riservé. C'è mia figlia, che è zitella, poi altre due o tre donne. Ci vogliono. Senza le donne non si fa niente in questi paesi». I signori le chiamano nei riservé e loro fanno chiamare tutta l'orchestra e si suona fino alle 4 o alle 5 tutte le notti. Questi signori si ubriacano e cacciano i rubli. Com'è umile questo primo richiamo alla patria lontana. Affacciata a finestra sta ross, o balcone rimbetta sto russ, essa more passione bis, essa è pazza d'amore bis. Se fanno una guardata, poi se ne fanno nata, senza tenere coraggio se parlare. O russ quando vede a ross la vena addosso. A ross quando vedo russ la vena mossa. Che la fa colombrina e chi le chiusa piccia sta rossa malovina di casa fide fa e a rossa vede che russa se fa russo russo russo russa vede che a rossa se fa russa rossa rossa appressa issa per da capessa e a rossa con una mossa maliziosa l'arra passa. Uè, uè. Grazie a Mauro Pescio e grazie a Giannetto Valli che ci fornisce di queste storie incredibili, storie vissute da parte della sua famiglia. Ed è bellissimo quest'ultimo passaggio in cui i due protagonisti del viaggio, che sono partiti dalla Cina, hanno attraversato il deserto del Gobi, arrivano in Siberia e si trovano una combricola di italiani, di napoletani la fattispecie, che suona e diciamo intrattiene questi ricchi russi e cerca di spillare loro qualche soldo, che è una storia che sembra anche abbastanza moderna tutto sommato. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui i vostri diari della ripartenza e la nostra storia. Linee d'ombra. Come stiamo ripartendo? In che modo? Non per forza in maniera roboante, ognuno di noi parte a modo suo, ognuno di noi riparte a modo suo. Quindi qui vi stiamo raccontando i diari della ripartenza, linee d'ombra @radio24.it, se avete voglia anche voi di farne parte, se avete voglia di mappare come tutto questo paese sta ripartendo. E la prossima storia arriva da Roma ed è proprio l'esempio che vi facevo prima, insomma non storie roboanti, non partenze che facciano rumore, ma anche piccole gioie quotidiane, quella del prossimo ascoltatore che ci racconta come va a pranzo in un bar di un amico e passeggiando per Roma attraversa Villa Borghese, passa la Piazza del Popolo e per quanto ci siano le mascherine, per quanto ci sia ancora poca gente in giro, a modo suo questa è una ripartenza che ama. Il 18 maggio, primo giorno di riapertura, per festeggiarlo sono voluto andare nel pasta bar del mio caro amico Dario. Sono partito da casa e sono passato a piedi per Villa Borghese. In quei giorni c'era la disposizione nei parchi che era possibile fare sport o camminare. In ogni caso era vietato sedersi sulle panchine a sostare e i romani, come sempre, se ne fregavano meravigliosamente, stando a parlare serenamente con amici che non vedevano da mesi. Le forze dell'ordine in quella zona sono passate a Villa Torlonia e a Villa Panfili, ma a Villa Borghese, almeno quella mattina, non si sono fatte vedere. Ho camminato quindi per buoni 45 minuti, passeggiando nel verde, cosa che adoro e che preferisco fare appena si può e ho tempo. Sono sceso fino a Piazza del Popolo. Le persone presenti in piazza erano una decina, simbolo di una città ancora non visitata dalla consueta enorme quantità di turisti. Poi ho proseguito ascoltando il vostro podcast fino a che non sono arrivato a destinazione, il bar del mio amico. Anche se era l'una, ero il primo cliente, in un posto dove di solito si servivano una cinquantina di coperti al giorno. Ho mangiato la mia pasta meravigliosa, come sempre, anzi ancora di più dopo la sosta forzata di mesi, e poi sono andato a prendermi un caffè. Dopodiché mi sono messo la mascherina e sono salito su un autobus che mi ha portato alla fermata di Lepanto. Delle quattro entrate disposte sugli angoli di un quadrato virtuale, una era adibita all'uscita dei viaggiatori. All'angolo opposto del quadrato c'era quella adibita all'entrata.

Di nuovo, come un film, la persecuzione è ripartita nell'intreccio vizioso tra chi si diverte male sulle spalle degli altri e chi, pur essendo in attesa di essere giudicato da un tribunale, ritiene di essere impunito e quindi continua per la sua strada con gli stessi strumenti. Io ho continuato a vivere, a lavorare, ma su Google il mio nome, ancora oggi, se faccio una ricerca, è affiancato dai suggerimenti scie, persecuzione, poi marito, fidanzato, compagno, figli, gambe, piedi. Qualche feticista del piede riproponeva continuamente il mio nome in un meccanismo che non conosco ma che aggiunge visibilità alle proprie condivisioni. Così, quando ho cominciato a pensare, vabbè, la questione delle scie chimiche l'ho più o meno potuta archiviare, mi si è ripresentata sotto altre forme da molte altre parti. E di tutto questo ci sono tracce sul web, praticamente impossibili da cancellare. Ogni volta che io leggo, oppure Mauro mi racconta la storia di Silvia Bencivelli, a me vengono in mente le parole di Umberto Eco sul fatto che non dovrebbe essere difficile. Eccola qua, al volo. Umberto Eco: i social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. È l'invasione degli imbecilli. Vabbè, era abbastanza arrabbiato Umberto Eco con queste persone, però leggendo la storia di Silvia Bencivelli tornano alla mente quelle parole. Grazie a lei per avercela raccontata, grazie a Mauro Pescio per raccoglierla, grazie a tutti quelli che fanno questo programma, cioè Anita Panizza, oltre a Mauro, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni. Ora lasciamo la linea al GR e voi continuate a mandarci le vostre storie. Linee d'ombra @radio24.it e i vostri diari dalla ripartenza. La linea al GR, vi dicevo, e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!